Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Quinta puntata. Un giorno, alla casa del lago, incontrammo Arturito Belano. Io lo presentai a Elena e a Paolo. Dissi che era un poeta cileno di 18 anni. Spiegai che scriveva non solo versi, ma anche testi di teatro. Paolo disse: «Ah, interessante». Elena non disse nulla, perché ormai a Elena sembrava interessante solo la sua relazione con Paolo. Andammo a prendere un caffè in un posto che si chiamava El Principio de México e che era, l'hanno chiuso un po' di tempo fa, in Calle Tokyo. Non so perché ricordo quel pomeriggio. Quel pomeriggio del 71 o del 72. E la cosa più curiosa è che lo ricordo dal mio osservatorio del 1968, dalla mia torre di vedetta, dal mio vagone sanguinante della metropolitana, dal mio infinito giorno di pioggia, dal bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia, la mia macchina del tempo, dalla quale posso osservare tutti i tempi in cui respira Auxilio La Couture, che non sono molti, ma ci sono. E ricordo che Arturo e l'italiano parlarono di teatro, del teatro dell'America Latina, ed Elena ordinò un cappuccino ed era piuttosto silenziosa, e che io mi misi a guardare le pareti e il pavimento del Principio de Mexico perché avevo subito notato qualcosa di strano. A me non sfuggono certe cose. Era come un rumore, un vento o un sospiro che passava a intervalli irregolari nelle fondamenta del bar. E così trascorsero i minuti, mentre Arturo e Paolo parlavano di teatro, Elena stava in silenzio e io giravo continuamente la testa per seguire le tracce dei rumori che stavano scalzando non tanto le fondamenta del Principio de Mexico, quanto dell'intera città, come se mi avvisassero, con qualche anno di anticipo o con qualche secolo di ritardo, del destino del teatro latinoamericano, della doppia natura del silenzio e della catastrofe collettiva, di cui i rumori inverosimili sono spesso gli araldi. I rumori inverosimili e le nuvole. E allora Paolo smise di parlare con Arturo e disse che quella mattina gli era arrivato il visto per Cuba. Tutto qui. Cessarono i rumori. Si interruppe il pensoso silenzio. Ci dimenticammo tutti del teatro latinoamericano, compreso Arturo, che di colpo non si dimenticava mai di nulla, anche se il teatro che preferiva non era esattamente quello latinoamericano, ma quello di Beckett e Jean Genet. E ci mettemmo a parlare di Cuba e dell'intervista che Paolo avrebbe fatto a Fidel Castro. E tutto finì lì. Ci salutammo sul Paseo della Riforma. Arturo fu il primo ad andarsene. Poi si avviarono anche Elena e il suo italiano. Io non mi mossi e rimasi là a inspirare l'aria che passava sul viale e li vidi allontanarsi. Elena zoppicava più del solito. Pensai a Elena. Respirai, tremai. La vidi allontanarsi zoppicando accanto all'italiano. E a un tratto vidi solo lei. L'italiano cominciò a svanire, a diventare trasparente. Tutta la gente che camminava su Reforma divenne trasparente. Per i miei occhi dolenti esistevano solo Elena e il suo cappotto e le sue scarpe. E allora pensai: resisti, Elena. E pensai anche: raggiungila e abbracciala. Ma lei stava per vivere le sue ultime notti d'amore e non potevo disturbarla. Dopo quel giorno passò molto tempo senza che sapessi nulla di Elena. Nessuno sapeva nulla. Uno dei suoi amici mi disse scomparsa in combattimento. Un altro sembra che sia andata a Puebla, a casa dei genitori. Io sapevo che Elena era città del Messico. Un giorno cercai casa sua e mi persi. Un altro giorno chiesi il suo indirizzo all'università e ci andai in taxi, ma nessuno mi aprì. Tornai ai miei poeti. Tornai alla mia vita notturna e dimenticai Elena. A volte la sognavo e la vedevo zoppicare nel campus infinito della UNAM. A volte mi affacciavo alla finestra del mio bagno delle donne, al quarto piano, e la vedevo avvicinarsi alla facoltà al centro di un vortice trasparente. A volte mi addormentavo sulle piastrelle del pavimento e sentivo i suoi passi salire le scale, come se venisse a salvarmi, come se venisse a dirmi scusa se ci ho messo tanto. E io aprivo la bocca, mezzo morta o mezzo addormentata, e dicevo uccido. Elena. Un termine del gergo messicano che significa fantastico e che non uso mai perché mi suona orribile. Cito, cito, cito. Orribile. Il gergo messicano è masochista e a volte anche sadomasochista. L'amore è così, amici miei. Ve lo dico io, che sono stata la madre di tutti i poeti. L'amore è così, il gergo è così, le strade sono così, i sonetti sono così, il cielo delle 5 del mattino è così. L'amicizia invece non è così. Nell'amicizia non si è mai soli. E io sono stata amica di Leon Felipe e di Don Pedro Garfias, ma sono stata amica anche dei più giovani, di quei ragazzini che vivevano nella solitudine dell'amore e nella solitudine del gergo. Uno di loro era Arturito Belano. Io l'ho conosciuto e sono stata amica sua. E lui è stato il mio giovane poeta favorito o il mio giovane poeta preferito. Anche se non era messicano. E la denominazione giovane poeta o giovane poesia o nuova generazione veniva sostanzialmente usata per riferirsi ai giovani poeti messicani che cercavano di prendere il posto di Pacheco o dell'illustre greco Guanajuato o di quel tipo cicciottello che lavorava al Ministero dell'Interno in attesa che il governo messicano gli desse un'ambasciata o un consolato. O dei poeti contadini, che non ricordo più se erano 3, 4 o 5 cavalieri dell'Apocalisse nerodiana, mentre Arturo Belano, benché fosse il più giovane di tutti, o almeno il più giovane per qualche tempo, non era messicano e quindi non rientrava nelle categorie di giovane poeta o giovane poesia. Una massa informe, ma viva, il cui scopo era di scuotere il tappeto o la terra fertile su cui pascolavano come statue Pacheco e il greco del Guanajuato o Aguas Calientes o Irapuato e quel tipo cicciottello che il passare del tempo aveva trasformato in un ossequioso e viscido ciccione, come capita spesso ai poeti, e i poeti contadini installati ogni giorno più comodamente. Ma che dico, attaccati, incollati, avvitati fin dagli inizi nella burocrazia amministrativa e letteraria. E quello che volevano i giovani poeti o la nuova generazione era far tremare il terreno e al momento giusto abbattere le statue, tranne quella di Pacheco. L'unico che sembrava scrivere davvero, l'unico che non sembrava un funzionario. Ma in fondo erano anche contro Pacheco. In fondo dovevano per forza essere contro tutti. Perciò quando io dicevo «Ma cos'è Emilio? È un uomo stupendo, è gentilissimo, è affascinante, per di più è un vero gentiluomo. I giovani poeti del Messico, e Arturito fra loro, benché Arturito non fosse uno di loro, mi guardavano come se pensassero «Ma che dice questa pazza? Che dice questo spaventapasseri uscito direttamente dall'inferno del bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia?» E davanti a sguardi del genere, una di solito non sa come ribattere, tranne me, è chiaro, che ero la madre di tutti loro e non arretravo mai. Una volta raccontai ai giovani poeti una storia che avevo sentito raccontare a José Emilio. Se Rubén Darío non fosse morto così giovane, prima di compiere 50 anni, sicuramente Huidobro sarebbe arrivato a conoscerlo. Più o meno nello stesso modo in cui Ezra Pound aveva conosciuto Yeats. Immaginate, Huidobro, segretario di Rubén Darío. Ma i giovani poeti erano giovani e non sapevano calibrare l'importanza che aveva avuto per la poesia di lingua inglese, in realtà per la poesia di tutto il mondo, l'incontro fra il vecchio Yeats e il giovane Pound. E quindi non si rendevano nemmeno conto dell'importanza che avrebbe avuto un ipotetico incontro fra Darío e Huidobro, la loro possibile amicizia, la gamma di possibilità perdute per la poesia di lingua spagnola. Perché, dico io, Darío avrebbe insegnato molto a Huidobro, ma anche Huidobro avrebbe insegnato varie cose a Darío. Il rapporto fra maestro e allievo è fatto così. Impara l'allievo, ma impara anche il maestro. E già che siamo qui a fare supposizioni, sono convinta, e ne era convinto anche Pacheco, e questo è uno dei motivi della grandezza di José Emilio, il suo innocente entusiasmo, che sarebbe stato Darío a imparare di più e avrebbe messo fine al modernismo e dato inizio a qualcosa di nuovo che non sarebbe stata l'avanguardia, ma qualcosa di simile all'avanguardia. Diciamo un'isola fra il modernismo e l'avanguardia. Un'isola che adesso chiamiamo l'isola inesistente. Parole che non ci sono mai state e che sarebbero potute esistere soltanto, ed è una supposizione molto ardita, dopo l'immaginario incontro fra Darío e Huidobro. E lo stesso Huidobro, dopo il suo proficuo incontro con Darío, sarebbe stato capace di fondare un'avanguardia ancora più vigorosa. Un'avanguardia che ora chiamiamo l'avanguardia inesistente e che, se fosse esistita, ci avrebbe reso diversi, ci avrebbe cambiato la vita. Ecco cosa dicevo ai giovani poeti del Messico e ad Arturito Belano quando parlavano male di José Emilio. Ma loro non mi ascoltavano. O ascoltavano solo la parte aneddotica della storia. I viaggi di Darío, i viaggi di Huidobro, i soggiorni in ospedale, una salute diversa, non condannata a spegnersi prematuramente, come si spengono tante altre cose in America Latina. E allora io restavo zitta. E loro continuavano a parlare male dei poeti del Messico che avrebbero massacrato, e io mi mettevo a pensare ai poeti morti come Darío e Huidobro, e agli incontri che non erano mai avvenuti. La verità è che la nostra storia è piena di incontri che non sono mai avvenuti. Non abbiamo avuto il nostro Pound né il nostro Yeats. Abbiamo avuto Huidobro e Darío. Abbiamo avuto quel che abbiamo avuto. E addirittura, tirando la corda con cui tutti tranne me si impiccheranno, certe sere i miei amici sembravano incarnare per un attimo quelli che non erano mai esistiti. I poeti dell'America Latina morti a 5 o a 10 anni, i poeti morti a pochi mesi dalla nascita. Era difficile. E per di più era o sembrava inutile, ma certe sere, dalle luci violacee, vedevo sui loro volti i visetti dei bebè che non erano mai cresciuti. Vedevo gli angioletti che in America Latina vengono seppelliti in scatole da scarpe o in piccole bare di legno verniciate di bianco. E a volte mi dicevo, questi ragazzi sono la speranza. Ma altre volte mi dicevo, come fanno a essere la speranza? Come fanno a essere la spumeggiante speranza questi giovani ubriaconi? Che sanno solo parlar male di José Emilio, queste giovani spugne esperte nell'arte dell'ospitalità, ma non in quella della poesia. E allora i giovani poeti del Messico si mettevano a recitare versi con le loro voci profonde ma irrimediabilmente giovanili. E i versi che recitavano se li portava via il vento per le strade di Città del Messico. E io mi mettevo a piangere e loro dicevano «Auxilio e ubriaca, sei illusi! Ce ne vuole di alcol perché io mi ubriachi!» Dicevano «Sta piangendo perché Tizio l'ha lasciata!» E io li lasciavo dire quello che volevano. Oppure ci litigavo, o li insultavo, o mi alzavo dalla sedia e me ne andavo senza pagare. Perché io non pagavo mai, o quasi mai. Io ero quella che vedeva il passato e quelle che vedono il passato non pagano mai. Vedevo anche il futuro e quelle invece pagano un prezzo elevato. A volte il prezzo è la vita o l'equilibrio mentale. E secondo me in quelle sere dimenticate, senza che nessuno se ne rendesse conto, io stavo pagando da bere a tutti. A quelli che sarebbero diventati poeti e a quelli che non lo sarebbero mai diventati. Io me ne andavo e sembrava che non pagassi. Non pagavo perché vedevo il vortice del passato che passava come una raffica di vento caldo per le strade di Città del Messico rompendo i vetri degli edifici. Ma vedevo anche il futuro dalla mia caverna abolita nel bagno delle donne al quarto piano. E per quello stavo pagando con la vita. Cioè, me ne andavo e pagavo, anche se nessuno se ne accorgeva. Pagavo il mio conto, e pagavo il conto dei giovani poeti messicani, e pagavo il conto degli alcolisti anonimi in qualunque bar ci trovassimo. E me ne andavo barcollando per le strade di Città del Messico, seguendo la mia ombra schiva. Sola e in lacrime, sentendo quello che probabilmente poteva sentire l'ultima uruguaiana sulla terra. Anche se io non ero l'ultima, che presunzione. I caratteri illuminati da centinaia di lune che attraversavo non erano quelli della terra ma del Messico, che sembra la stessa cosa ma non lo è. E una volta sentii che qualcuno mi seguiva.